in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come potete immaginare, tutte le pagine dei quotidiani sono dominate dal referendum greco. Circa 10 milioni di greci stanno per votare sì o no all'accordo sull'Europa, e quindi cominciamo dal Corriere della Sera, che titola "L'Europa in ansia per il referendum che divide i greci", l'articolo principale di Aldo Cazzullo. Vi segnalo l'analisi di Danilo Taino su quello che potrà succedere, aiuti o default, e poi un pezzo interessante, visto che appunto, come potete immaginare, sono tantissimi i commenti e le ipotesi che si cercano di fare in queste ore prima di avere i risultati del referendum. La fotonotizia del Corriere è uno dei murales apparsi di recente, dipinti di recente ad Atene. Il commento è di Vincenzo Trione, che è il critico d'arte del Corriere della Sera, nonché curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Vincenzo Trione, appunto, che ci racconta le paure scolpite sui muri di Atene. Ma vediamo subito il Sole 24 Ore, che invece titola "L'Europa guarda ad Atene". In questo caso anche qui tantissimi commenti, compreso un'analisi del direttore Roberto Napoletano: l'Europa che serve a loro, a noi, con ricapitolando il ruolo che hanno avuto la Germania, la Grecia, l'Italia, la Spagna, ma anche la Francia in questi giorni, gli ultimi giorni tesissimi di negoziato. Ma poi ancora, anche qui per un angolo di un punto di vista diverso, un articolo di Armando Torno, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene per la sua trasmissione Musica Maestro, che fa un po' un excursus storico, ripeto, sempre un punto di vista diverso: 6 secoli di incomprensioni con i greci, dallo strappo di Bisanzio, pensate, a quello con Bruxelles. E poi ancora l'analisi di Vittorio Darold, che è inviato ad Atene dal Sole 24 Ore, quindi che ci racconta proprio le sensazioni raccolte per le strade. E poi ancora borse pronte alla volatilità, che cosa succederà lunedì quando si riapriranno i mercati. Tra l'altro vi segnalo che a partire dalle 10 il sito del Sole 24 Ore, come del resto quello di Radio 24, sarà aperto, verrà aggiornato, e domani il Sole 24 Ore sarà in edicola con un'edizione speciale dedicata appunto alle elezioni. Per quanto riguarda la domenica, come sempre sapete, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, il titolo su cui si focalizza il nostro collega di finanza, analizzandolo da tutti i punti di vista per dare dei consigli ai potenziali investitori, è quello di Sae & Schatters, che è un'azienda high tech, e ci spiega Vittorio Carlino: adesso scommette sugli acceleratori di particelle. La prima pagina della Repubblica: Grecia al voto tra i veleni, perché sapete che le dichiarazioni fortissime di ieri del ministro delle finanze Yanis Varoufakis, che ha detto l'Unione Europea sta facendo terrorismo, e non solo l'Unione Europea, anche il Fondo Monetario Internazionale, secondo Varoufakis, ma anche Repubblica riporta la replica di Schäuble, Wolfgang Schäuble, il falco, il ministro delle finanze tedesco, che ha sempre detto: sono da sempre scettico sul vostro atteggiamento, voi non volete cambiare. E poi riportate anche le dichiarazioni di Renzi, che, come avete sentito, è intervenuto dicendo che per l'Italia non c'è rischio. La fotonotizia però è dedicata alla Tunisia, che sapete ha dichiarato a più di una settimana dagli attentati lo stato di emergenza, che era stato tolto dopo 2 anni, ma è stato rimesso, e tra l'altro oggi dovrebbe essere completata la chiusura di quelle 80 moschee considerate pericolose perché covo di possibili terroristi. Vi segnalo, tra i molti commenti sulla crisi greca, un intervento di Paul Krugman, che è un premio Nobel per l'economia, un economista e un editorialista anche del New York Times, e spesso la Repubblica traduce i suoi articoli. È decisamente critico verso la moneta unica. L'articolo si intitola addirittura "I disastri di Bruxelles, la moneta unica è una camicia di forza". La Stampa: Grecia al voto con l'incubo fallimento, anche qui tantissimi i commenti. Vi segnalo in particolare un articolo, sempre per appunto leggere qualcosa che vada un po' al di là della cronaca, quello di Marco Belpoliti, "Il tempo delle crisi permanenti". Per in effetti, se ci pensate, insomma, è dal 2008 che questa parola crisi l'abbiamo usata talmente tante volte in talmente tanti contesti, non dico che sia venuta a noia, però vuol dire che appunto forse è diventata proprio questo è diventato il tempo, il nostro, delle crisi permanenti. La fotonotizia scelta dalla Stampa è diversa, perché, come forse avrete sentito, negli ultimi 3 giorni di contrattazioni c'è stato un vero e proprio crollo della borsa di Shanghai, che è una delle 2 principali della Cina, e quella di Shenzhen, quella di Shanghai ha chiuso venerdì con una perdita del 5,8%, Shenzhen del 5,4%. Il problema è che appunto negli ultimi giorni ha perso addirittura il 30%, e allora Semprini e ci racconta come cosa sta cercando di fare il governo cinese per arginare questo pericoloso crollo, perché potrebbe essere appunto questo crollo potrebbe essere un primo campanello di quella che molti temono essere stata una bolla finanziaria in Cina. Il Messaggero: Grecia, dopo il voto la UE cambi, e questo è il virgolettato tratto da un'intervista che Matteo Renzi ha concesso al Messaggero, dove annuncia: da domani tutti di nuovo attorno a un tavolo e si torna a parlare di crescita. Vi segnalo, come ogni domenica sul Messaggero, l'intervento di Romano Prodi, che della Commissione Europea è stato anche presidente. L'antidoto ai pasticci è un'Europa federale, questo il dopo Atene per Romano Prodi. Vi segnalo l'Unità anche, che è in edicola oggi, è il sesto giorno della nuova Unità, è tornata in edicola martedì 30 giugno. Il titolo: Grecia al voto, forza Europa. E vi segnalo anche che scopriamo che ogni domenica ci sarà un intervento di Walter Veltroni. Oggi si intitola questo intervento La Domenica di Walter Veltroni. Walter Veltroni, lo sapete tutti naturalmente, è stato segretario del PD, ma è stato anche direttore dell'Unità anni fa. La fotonotizia però è dedicata a Antonio Tabucchi, lo scrittore scomparso qualche anno fa, alle pagine 15 e 17, l'Unità ripubblica un testo di Tabucchi. L'Avvenire: Atene, virgola Europa, perché naturalmente è occhi puntati sull'Europa, ma poi un approfondimento sul Papa, perché il Papa sta per partire per un viaggio in America Latina, visiterà Ecuador, Bolivia e Paraguay, il Papa Pellegrino in America Latina. Il Giornale: tragedia greca, farsa europea. Naturalmente anche qui tantissimi commenti. Vi segnalo per esempio quello di Renato Brunetta, che sempre la domenica scrive per Il Giornale, capogruppo alla Camera dei senatori dei parlamentari di Forza Italia. Con regolamenti e patti truffa è nato l'euro a trazione tedesca. Questa, sapete, è una delle più frequenti accuse che si muove all'Unione Europea, di essere appunto dominata dalla Germania, in particolare da Angela Merkel e dal suo ministro delle finanze Schäuble. Dal Libero: Renzi attacca gli imprenditori, quindi questa volta non la Grecia, è forse l'unico quotidiano che non titola sulla Grecia. Ieri infatti alla normale, forse si potrebbe considerare, dialettica che c'è tra imprenditori e governo, che magari apprezzano o non apprezzano alcune misure, Renzi ha risposto: non mi procurano il mal di testa le critiche degli imprenditori. E qui quindi un po' la polemica di Libero, che nell'occhiello scrive: lotta senza classe. Il Fatto Quotidiano: la Grecia contro tutti, sì o no? Da una parte c'è il viso di Tsipras e dall'altra ci sono quelli di Juncker, Angela Merkel e Matteo Renzi. La Grecia contro tutti, sì o no? Ma non vince nessuno. Il Manifesto ha una foto con le persone in piazza che tengono in mano la scritta Oxy, che sapete vuol dire no, quindi il Manifesto è chiaramente schierato, si auspica che i greci dicano no all'accordo con la UE. Sapete che più o meno i sondaggi indicano che c'è un testa a testa tra Oxy e Nei, cioè tra Oxy che è no e Nei che sarebbe sì. L'ultima prima pagina, la Gazzetta dello Sport, comunque per cambiare un pochino argomento, il calciomercato naturalmente è al centro degli articoli della Gazzetta dello Sport, e c'è la questione Mohamed Salah, che è questo giocatore egiziano di 23 anni, centrocampista della Fiorentina, e c'è un po' un mistero perché è partita una diffida della Fiorentina, sarebbe stato annunciato un accordo già con l'Inter, ma appunto la Fiorentina ha detto no, non è possibile, il giocatore è ancora sotto contratto con la Fiorentina. Vedremo, insomma, il calciomercato sappiamo che è un po' una delle soap opera dell'estate. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo dal Corriere della Sera una pagina intera di Sergio Rizzo, che come spesso accade si occupa di sprechi, e oggi sono gli sprechi legati all'evasione e alla corruzione, rubati 236 miliardi al PIL, e questo appunto sono le stime fatte da un recente studio. Pensate appunto quante risorse verrebbero liberate se si riuscisse veramente ad arginare corruzione ed evasione. Ci sono due schemi che mostrano anche quanto sia aumentata tra il 2002 e il 2014. Un'ultima segnalazione dal Corriere, un bellissimo reportage da Teheran di Viviana Mazza, che ci racconta la capitale iraniana, sapete, un paese con un'età media molto giovane, un paese che sta cercando, anche grazie alla distensione un po' sul nucleare con gli Stati Uniti, di entrare in una nuova fase. Preghiere, motocross femminile, musica rock e diritti per cui lottare. Aspettando il 7 luglio, la nuova scadenza per l'accordo sul sul nucleare in una città in trasformazione che ha voglia di aprirsi al mondo. Ci fermiamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, abbiamo visto come praticamente tutte sono dedicate al referendum in Grecia e vediamo invece un approfondimento dal Sole 24 Ore. Vi dicevo appunto tutti in attesa anche della riapertura delle borse domani, tra l'altro forse domani riapriranno anche le banche in Grecia, non si sa. Comunque a pagina 5 del Sole 24 Ore, borse in tensione, volatilità al record dal 2012. Nelle settimane scorse abbiamo infatti tutti sentito un po' questo otto volante dei listini di tutto il mondo che seguono con apprensione le vicende greche e poi soprattutto, come abbiamo visto anche sulla prima pagina della stampa, questo crollo della borsa cinese, che è sicuramente allarmante perché per molti è appunto il campanello di allarme in realtà di una bolla finanziaria che avrebbe attraversato i mercati cinesi almeno nell'ultimo anno. Ma vi segnalo dalla stampa un approfondimento di Federico Varese: così in Grecia la mafia russa allarga il suo potere grazie alla crisi. La mafia russa appunto punta al monopolio del commercio di droga corrompendo e controllando i porti, e c'è questa analisi di una delle tante sfaccettature della crisi. Approfondimento molto interessante sul Messaggero, che ci racconta quanto già si sia votato sull'Unione Europea. Il titolo è "Quando decidono i popoli sull'Unione", già 40 referendum, dal primo no della Norvegia nel 1972 fino al sofferto sì della Croazia nel 2013. Gli irlandesi, pensate, hanno potuto pronunciarsi su ogni passaggio dell'evoluzione dell'Unione Europea, è ovviamente previsto dalla loro Costituzione. In Italia però non è quasi mai successo. Ci ricorda appunto il Messaggero che nel 1989 l'88% degli elettori italiani dissero sì al referendum consultivo sulla cessione di potere all'Unione Europea, però è l'unico voto che gli italiani hanno espresso in tutti questi anni sull'Europa. Passiamo alle pagine culturali, perché forse oggi è un po' questa la scelta, insomma, dedicarsi all'appassionante, interessante e molto importante tema della Grecia, del referendum che si svolgerà oggi, oppure, ma non necessariamente oppure, si possono fare entrambe le cose. Poi ci sono i supplementi culturali. Cominciamo come sempre dalla domenica, quello del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Diplomazia. La citazione è da uno scrittore francese, André Mauroy, ed è questa: la diplomazia è l'arte di esporre l'ostilità con cortesia. Scrive Ravasi: le ironie sui diplomatici si sprecano nella convinzione che essi dicano solo la verità quando sono a corto di bugie, come è stato maliziosamente detto in passato. La definizione che abbiamo citato va nella stessa linea ed è dello scrittore francese André Mauroy, morto nel 1967. Eppure vorremmo, proprio da questo tratto negativo, desumere una nota positiva. Essa riguarda la cortesia, una virtù civile ormai smarrita. Anche quando si deve ricorrere a un rimprovero o recriminare su qualcosa, si può farlo con garbo. Invece si indulge nella sguaiatezza, all'attacco rozzo, alla minaccia arcigna e fin violenta. In realtà, con la gentilezza si otterrebbe molto di più di quanto si ricava con la veemenza. Nel suo Galateo, Monsignor Giovanni della Casa ammoniva: chi sa carezzare le persone con picciolo capitale fa grosso guadagno. Insomma, di diplomazia e di come la diplomazia abbia mostrato forse il meglio ma anche il peggio di sé sulla crisi Grecia, appunto, abbiamo visto molte cose. Ma la copertina del domenicale, in realtà intitolata "Ridere dei nostri difetti", è dalla presentazione di Goffredo Fofi di una collana che verrà allegata a partire da venerdì prossimo fino al 9 ottobre di classici dell'umorismo. Si parte con "Tre uomini in barca" di Jérôme Capajérôme. Il memorandum di Roberto Napoletano, direttore del Sole di Radio 24, è dedicato un po' alla ripresa di quello della settimana scorsa, in cui il nostro direttore appunto raccontava di un'esperienza sua personale avuta a un ospedale romano, il Gemelli, un'esperienza positiva. Da lì gli hanno scritto molti medici e molti pazienti. Il titolo della Repubblica questa settimana è "Chi sa solo di medicina non sa niente di medicina", ed è appunto la citazione di un medico che appunto spiega come una cosa che in teoria dovrebbe essere normale, ma spesso non lo è, che appunto il medico deve sempre guardare al paziente in un modo il più generale possibile e mai solo alla sua malattia. Questo è un po' il senso, e quindi, tornando anche alla gentilezza di cui parlava Ravasi, quanto è difficile fare il mestiere di medico, perché comporta non solo un sapere tecnico ma molti altri saperi e sensibilità. Dalle pagine interne del domenicale, un bellissimo articolo di Gilberto Corbellini, una che scrive, sapete, spessissimo di scienza, e questo è una discussione sul giusto costo dei farmaci che spesso si fa, e qui Gilberto Corbellini, partendo da uno studio di A.T. Kearney, ci spiega come ridurre artificiosamente i prezzi delle medicine genera effetti negativi sulla salute dei cittadini, che non beneficiano più dell'innovazione, fondamentale naturalmente in una materia come la medicina. Un'altra segnalazione dalle pagine di arte del Domenicale, di due rassegne che ci sono in questo momento alla Guggenheim di Venezia, per chi volesse fare una gita magari anche per andare a vedere la Biennale di cui abbiamo parlato, i fratelli Pollock da Peggy, due rassegne alla Fondazione Guggenheim. Ada Masoero ci racconta quella murale su Jackson Pollock il più famoso, e poi una retrospettiva sul fratello di Jackson Pollock, Charles, meno conosciuto ma comunque appunto interessante. Passiamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, come sempre sapete la copertina è affidata a un artista, oggi è Maurizio Nannucci. All'interno vi segnalo un lungo articolo che parte da alcuni testi su quello che è sicuramente un tema molto attuale anche per il sovrappopolamento delle carceri. Avete sentito che Obama ieri, in occasione della festa dell'indipendenza, ha dato la grazia a molti carcerati che erano in carcere per aver per essere stati arrestati 3 volte per uso di droga. Il motivo è che le carceri sono sovraffollate, quindi questo tipo di reato diventa un reato minore, e qui c'è tutta una disamina di come può evolvere l'idea, il concetto di pena. Il titolo è "Il carcere non può essere una pena, esecuzione della condanna e riabilitazione del reo". L'articolo è di Glauco Giostra, che è il coordinatore del Comitato Scientifico degli Stati Generali sul trattamento e il recupero dei dipendenti. Un'intervista di Matteo Persivali a Jonathan Franzen, di cui sta per uscire il nuovo libro, La purezza è impossibile. Persivale definisce il nuovo libro di Jonathan Franzen Purity, sapete, è l'autore delle Correzioni, un libro che ha avuto tantissimo successo negli anni scorsi. Lo scrittore non processa più l'America, ma tutti noi. E poi, molto divertente, un'intervista a fumetti di Cristina Taglietti a Vanna Vinci, che è un'attrice di fumetti. Il titolo: "Ti amo Corto Maltese, sei una bomba", e io, per quanto mi riguarda, Vanna Vinci appunto, disegno bambine terribili come me. La Domenica della Repubblica è invece dedicata a un progetto di Alessandro Baricco, che ha scelto 100 immagini per raccontare come vede il mondo. Il titolo: "Foto Baricco, il mondo raccontato da uno scrittore in poche parole ma con 100 immagini". L'intervista su due pagine, Straparlando di Antonio Gnoli, è dedicata a Folco Quilici, che insomma è uno di quelle, è difficile da definire, sicuramente un intellettuale, scrittore, regista, fotografo, viaggiatore, documentarista, e il titolo scelto è "Ho viaggiato e ho fatto immersioni per dimenticare il mio inconscio". Altra bellissima intervista di Enrico Franceschini a Zadie Smith, la scrittrice inglese: "Ho scritto solo 4 romanzi, ma tra gli autori under 40 è già considerata una stella. Dice: sono una slow writer". Insomma, non mi vergogno, non mi dispiace aver scritto così pochi romanzi, anche se forse spesso quando un autore ha successo molto giovane poi ci si aspetta subito un libro all'anno. Alias, del supplemento del Manifesto della Domenica, è invece, sapete che ha queste recensioni vecchio stile, una pagina intera. Oggi è dedicata a un libro di uno scrittore argentino, Riccardo Piglia, è stato appena ripubblicato, L'invasione, una raccolta di racconti, lucidi enigmi, appunto, titola Alias. Il Fatto ha un'intervista un'intervista su due pagine molto bella all'attrice Adriana Asti, che racconta insomma tutta la sua carriera di attrice, ma anche la sua esperienza di donna. E infine vi segnalo il supplemento del Messaggero Macro, dedicato all'inventore delle pom-pom, delle cheerleaders, perché è morto Lawrence Herkimer, inventore delle cheerleader. Pensate che aveva appunto inventato questa disciplina, e addirittura aveva un sistema di royalties, tant'è che ogni anno gli fruttavano 50 milioni di dollari il fatto di essere stato appunto l'inventore delle cheerleaders. Grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a tutti voi, buona domenica da Giulia Crivelli.